realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Salve, lei è? Capitan America. Ah, e Steve. Cosa Ho saputo che ci sono diversi cattivi e io sono venuto a affrontarli. Ciao, tu sei? Sono Bane. Ah, Bane, quello del film di Batman. Senti, di professione tu cosa fai? Io il falegname. Il falegname. Frank, da dove arrivi, Frank? Da un film, Donnie Darko. Noto che hai un pelo abbastanza bello, che shampoo usi? Ma io balsamo. Sono Hellboy. Wow, ma sei Hellboy del fumetto o quello del film? Sono quello del film, come vedete ho le gambe. Non ho le zampette da capretta. E in effetti un po' speravo che sotto lo stivale ci fosse lo zoccolo, ma invece va bene uguale. Loki, Occhi di Falco, Iron Man, Capitan America, Thor, Avengers. Versione femminile. Ma siete qui perché c'è un qualche pericolo per l'umanità o per Luca in particolare o cosa? Siamo qua per i cosplayer che non fanno il loro lavoro per bene, per... Io lo so che questa mattina mi procurerò il punto di vista più refrattario da parte del pubblico, come con le cose importanti di cui si potrebbe parlare, tu a parlare di fumetti, di horror, di fantasia. Sì, voglio parlarne, primo perché vedo che nel lessico quotidiano della politica, in questo momento fantastico in cui tutti si contrappongono e tutti sono sotto stallo, domani penso farò la trasmissione sullo stallo messicano. Cosa è? Lo capirete domani. Esattamente una situazione presa dalla fantasy, dalla fiction, dalla più fantastica lettura della realtà, che in questo momento si sta proponendo come la chiave di lettura più coerente alla politica. Quindi vedete, chi si fa una cultura attraverso i fumetti, attraverso i B-movie, attraverso le serie di telefilm, ha chiavi interpretative della realtà molto più solide e molto più coerenti rispetto a chi si è formato nelle grandi accademie, nelle università, nelle scuole di partito. Ma guardate che il termine zombie, mostro vivente, cadavere vivente, è all'ordine del giorno. Chi lo dice in maniera esplicita, chi lo dice attraverso metafore. In questi giorni ci sarà a Roma una fantastica occasione di vedere dove realmente sta andando la nostra gioventù e la fantasia dei nostri figli, cosa che i genitori forse ignorano. Sarà l'edizione di primavera di Romix alla nuova fiera di Roma da giovedì 4 a domenica 7 aprile 2013, in cui ci saranno dei padiglioni immensi dove vedrete, se ci andrete mai, delle frotte di ragazzi vestiti nelle maniere più strane. Voi direte, ma dove vengono questi? Da quale parte del mondo? No, vengono da casa vostra, dalle camerette di cui voi ignorate i più reconditi recessi, vengono dalle nostre borgate, vengono dai nostri quartieri alti. Sono ragazzi che stanno maturando un loro immaginario che è totalmente diverso da quello dei loro genitori, che è fatto anche di valori molto solidi, di valori che nessuno è riuscito a far trapelare a loro. Non ci sono riusciti i preti, non ci sono riusciti gli insegnanti, non ci sono riusciti gli educatori, ma ci sono riusciti magari, non so, dei manga che vengono dal Giappone lontanissimo, che mostrano loro figure eticamente inattaccabili di insegnanti, di tutori, di istruttori di ginnastica o attività sportive. Voi non lo immaginate perché li vedete vestiti da cadaveri, da morti viventi, da guerrieri con sciabole, da stranissime e fantomatiche fanciulle discinte. Beh, questo oggi dà l'idea per riflettere un po' sul nostro immaginario. Dov'è si è fermato il vostro immaginario? Si è fermato ai fumetti della Marvel? Si è fermato a Tex Willer? Si è fermato a Topolino? Giulio Giorello, un filosofo della scienza, ha proprio in questi giorni pubblicato un libro su Topolino e la filosofia, ma sono stati fatti tantissimi sui Simpson e la filosofia, ad esempio. Quello che noi guardiamo come robetta per ragazzi, in realtà c'era delle chiavi interpretative della realtà molto più profonde di quelle che noi possiamo immaginare. 800240024, aspetto questa mattina, parliate del fantastico e non del crudamente e tristemente grigio attuale. Gli zombie non mangiano budella e frattaglie, gli zombie mangiano il cervello umano per lenire il dolore che stanno provando, perlomeno questo nei film principali di zombie è così, quindi mangiano il cervello per come fosse una specie di aspirina. Queste creature non si possono considerare esseri umani e non si uccidono tra di loro, si nutrono soltanto di carne viva. Hanno poca intelligenza e nessuna capacità di ragionamento. Queste creature creature sono guidate soltanto da puro istinto emotivo. Ne restano alcune capacità elementari e hanno reminiscenze di quando erano in vita. Non dobbiamo essere... Buongiorno Luca Valtorta. Buongiorno. Direttore della rivista Excel di Repubblica, questo mese esce con un numero speciale dedicato all'horror. Ce l'ho qui in mano. C'è un fantastico zombie in prima pagina. È fantastico perché mentre il quotidiano parla in effetti a tutti gli effetti di zombie, anche se non si può dire, se è brutto dirlo, l'inserto concretizza la radice e la scaturigine di questo immaginario. Perché hai deciso di parlare proprio di zombie? Io potrei risponderti forse con argomenti molto dettagliati e documentati. Ho un figlio che tornerà questa notte da Tokyo, è andato a Tokyo perché, come sai, c'è stata una marcia di zombie e mi sono sentito di fargli questo regalo, farlo andare a Tokyo a fare la marcia degli zombie giapponesi. Ma cosa accade invece a Roma? Beh, noi a nostra volta organizziamo a Romix per l'appunto una marcia di zombie italiani, per l'appunto. Però noi, come mensile di Repubblica, non rivendichiamo in realtà il fatto di aver fatto un numero tematico dedicato a zombie, vampiri e al cinema dell'orrore in generale come momento di evasione, ma anzi, al contrario... È quello che dicevo io, stai sottolineando una realtà... Esatto, esatto, lo spiego nell'editoriale in cui comunque faccio riferimento al fatto che bene o male l'immaginario culturale innerva da sempre profondamente una cartina di tornasole di quello che succede nel sociale. Il nostro quotidiano, tra l'altro, pochi giorni fa ha pubblicato un pezzo che raccontava come in questo periodo storico i film del terrore siano gli unici che funzionano al botteghino, quindi avremo una produzione di massa nei prossimi tempi. Non è un caso che non si parla più di supereroi o di fantaeroi o di mitiche trasposizioni della realtà, belle, piene di fantasy, piene di bene contro male, si parla solo di morti viventi in questo momento. Assolutamente, assolutamente. Noi ci abbiamo aggiunto anche un altro elemento, siccome ci piace sempre andare a rivendicare quello che l'Italia ha fatto in passato e che in realtà potrebbe continuare a fare anche oggi, siamo andati a ripescare tutto un immaginario che il resto del mondo ci invidia. C'è il solito Tarantino che si può citare, ma in realtà in questo momento ci sono tanti atti di omaggio al nostro cinema e alla nostra musica cosiddetta di genere. Per esempio c'è un bellissimo film che si intitola Berberian Sound Studio che omaggia proprio l'epoca d'oro di Argento, Fulce Bava. Il regista Peter Strickland è stato salutato dal Guardian come il nuovo David Lynch praticamente. Ma diciamo che i cannibali, gli squartamenti e gli schizzi di sangue ce li siamo inventati noi. Assolutamente, ce li siamo inventati tra l'altro con una povertà di mezzi, con una genialità straordinaria che appunto tutto il mondo ci invidia. Ma, sai, non vorrei dire, una cosa forte Luca, ma in certi momenti, in certe epoche di tensione civile abbiamo dimostrato che siamo degli abili squartatori e dei perfetti sbudellatori anche del nostro vicino di casa, quindi evidentemente c'è in noi una qualità che teniamo sopita, non a caso poi ci esprimiamo anche in questa maniera. Sì, purtroppo certi fatti di cronaca, insomma, anche adesso ce lo raccontano. Le morti in prigione sono la prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo all'Italia apparentemente pacifica e pacificata di oggi. Sì, io penso, sai, proprio rispetto all'episodio che hai fatto te, poi sorvoliamo perché voglio parlare di fantasy, non di realtà, sul sangue finto e fittizio del ragazzo ucciso dalla polizia che la madre portava come protesta, si è inanellato un dibattito, quindi vedi, abbiamo un legame molto forte fra realtà e fantasy, tanto che la realtà molte volte viene attenuata adducendo elementi di fantasy. Assolutamente, noi come giornale appunto che si occupa di cultura tra virgolette giovanile, perché il nostro pubblico è principalmente quello, questo lo sappiamo bene e cerchiamo veramente sempre di tessere un filo rosso che mette insieme le due cose, perché come dicevi tu poi c'è una sorta di paternalismo, no? Della serie noi ci occupiamo di cose serie, noi ci occupiamo della politica, noi invece no, noi ci occupiamo di immaginario culturale, riteniamo che sia veramente molto serio. Scusa, ma trovi qualcosa di serio nella politica attuale? Onestamente mi sento di dirlo, che viva la marcia degli zombie, almeno sarà probabilmente la più radicale forma di dimostrazione del senso generale di chi osserva la politica. Dice esattamente come avviene questa marcia degli zombie che avverrà, mi sembra, venerdì? Ah no, sì, sabato. Sabato mattina. Naturalmente, appunto, come tu raccontavi, intanto faccio una piccolissima premessa sempre di tipo politico. Romero ha iniziato a raccontarci gli zombie negli anni 70 facendo una metafora del proletariato, perché anche lì gli zombie avevano una valenza politica, e anche alcuni autori giovani come il personaggio del momento a livello underground, Zero Calcare, rivendica fortemente la matrice politica dello zombie proletario. Detto questo, appunto, la marcia degli zombie inizierà presso i padiglioni del Romix con una serie di ragazzi che lì si troveranno vestiti per l'appunto come zombie, e ormai esistono tecniche straordinarie di trucco che andremo poi a raccontare, perché questa marcia si concluderà in un padiglione dove faremo una sorta di dibattito, nulla di simile alla corazzata Potemkin, per carità, però è importante raccontare, appunto, spiegare che cos'è questo immaginario, da dove deriva, da dove viene, e poi daremo inizio a un ulteriore capitolo che è la maratona di Walking Dead, che è il fenomeno mondiale in questo momento a livello di telefilm. Cioè, è la storia di un'umanità, come sempre avviene, post-morbo degli zombie, in cui i sopravvissuti ristabiliscono le regole del vivere mettendosi in delle comunità che difendono fortemente il loro diritto alla sopravvivenza. Anche lì ci sono i deliri di onnipotenza, un governatore che pensa di essere il dio in terra a questo punto, esercita un potere sadico, dispotico, un poliziotto buono che non a caso ha creato il fortino dei sopravvissuti dentro una prigione. Ci sono dei sottolivelli di lettura fantastici in questa serie, che purtroppo è in un momento di pausa, è andata in onda l'altra sera, l'ultima puntata di questa fase, poi ci faranno aspettare qualche mese a vedere come va a finire. Ma è molto bello questo. Senti, sentiamo qualche ascoltatore. Anna, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono intervenuta ben volentieri nella vostra trasmissione perché parte dell'Italia ogni weekend ritorna in feste celtiche, in rievocazioni. Questo è un modo di scappare dalla realtà, ma di... Cosa fa lei, Anna? Anna, lei cosa fa in particolare? Voglio capire. Io curo rievocazioni storiche ed è una parte... Ma cosa? Centurioni, ancelle romane? Sì, cosa sì, centurioni, ancelle romane, feste medievali, rinascimento... Anche orge? Revello, Baggio, Castello, fantasy, medioevo. Orge, le orge lì le lasciamo alle feste celtiche, forse. Ah, perché le feste celtiche come avvengono invece? No, perché i romani erano grandi orgiastici. A parte uno studio accurato, perché adesso stavo scherzando, c'è uno studio accurato per quanto riguarda questa parte di fantasy, ma gran parte dei rievocatori sono persone che vivono una doppia vita, magari fanno i medici, i veterinari, poi sabato e la domenica diventano duca, cavalieri. Ma non ci trovo niente di assolutamente strano o particolare. Vivere una vita concretamente fantasiosa lo trovo fantastico. Guardi, io mi piace molto girare Roma in bicicletta e vedo un evolversi dei travestimenti di strada. Gli artisti di strada interpretano personaggi fantastici o statue viventi o personaggi strani. All'indomani della Via Crucis, lungo Via dei Fori Imperiali, il più geniale di tutti si era vestito da papa. Somigliava vagamente a Papa Wojtyła, quindi aveva una sua predestinazione genetica. Era in un angolino vestito da papa, in bianco, seduto su una sedia, e faceva un gesto simile a benedizione. Passavano i turisti, lo fotografavano, e per loro quella era la foto accanto al papa. Pensi che straniamento è uscita dalla realtà che c'era in quel momento. Nel luogo sacro in cui si era appena svolta la Via Crucis, poche ore prima, già c'era un papa fittizio, una persona travestita da papa che dava l'illusione ai turisti di passaggio di potersi fare la foto assieme al papa. Superman chiude la sua storia d'amore con Lois Lane dopo 15 anni e cambia look. Niente più calzamaglia blu e intimo rosso, ma una t-shirt aderente e jeans strappati. Chi glielo dice adesso a Max Pezzali? In tempi di profezie apocalittiche un po' deludenti, qui gli 883 battono mai a 1-0 almeno. A 20 anni da quel tormentone, infatti, adesso l'uomo ragno muore per davvero. Quelli della mala però non c'entrano niente, a ucciderlo nell'ultimo numero, il 700, sarà infatti più semplicemente il suo storico nemico, Dr. Octopus. Questa la fine che mamma Marvel ha deciso per lui. Di più, il terribile Dr. Octopus si impossesserà... Alessio, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire alla sua trasmissione, che è sempre molto interessante, per una riflessione che stavo facendo l'altra sera con la mia compagna. Fondamentalmente, ho 30 anni e ci siamo resi conto che conosciamo a memoria le sigle dei cartoni animati manga piuttosto che delle serie televisive che ci interessano, forse ancor meglio di come i nostri nonni conoscevano a memoria il Vangelo. Cioè, noi abbiamo nuovi immaginari e nuovi stereotipi da seguire come, ecco, Alessio, come Alessio, valori, Alessio, come... La capisco, scusi se la interrompo, ma devo un momentare. La domanda che le faccio, questo secondo lei corrisponde a una pratica? I nostri nonni conoscevano a memoria il Vangelo, poi non è detto che nella pratica concreta lo applicassero in ogni suo dettame. Il fatto che noi abbiamo ben visibile, ben presente un universo immaginario fatto di una creatività definita totalmente profana, totalmente fuori di quello che viene dichiarato eticamente corretto, non sono le tavole della legge, non sono i testi sacri, però condizionano la nostra vita. Le dico, se io ho dovuto mandare un figlio di 17 anni a Tokyo per farlo felice 2 settimane, a girare nel quartiere degli otaku e fare la marcia degli zombie, evidentemente è rappresentativo di qualcosa che ormai è presente nella società. Lei come lo applica nella sua vita personale e quotidiana questo fantastico percorso di in sottotraccia fatto di eroi dei fumetti, dei telefilm, della fantasy? Lo applico aiutando la figlia della mia vicina di casa a travestirsi per il cosplay di Luca, che noi siamo qua in Toscana. E con la vicina cosa ci fa? Eh? E con la vicina cosa fa dopo che ha aiutato la figlia a vestirsi da cosplay? Ci beviamo un bicchiere di vino, ci mettiamo a ridere. E beh, mi sembra logico. Ah, domanda come tante. No, prima di malizia. No, però. È tanta applicazione, merita riconoscenza da parte della madre, immagino, non lo so. Sì, assolutamente. Però nel senso finisce lì. No, è interessante come tutti questi personaggi caratterizzati da com'è che posso dire, forti valori, siano molto più presenti nella vita dei... Mi faccia degli esempi concreti. Da cosa si veste la ragazza? Cosa vede? Qual è il valore corrispondente rispetto al personaggio? Allora, al momento sono un po' fuori dal giro perché ero un lettore di manga, ora che chiaramente in Italia sono esplosi e ci sono dei personaggi che chiaramente non conosco. È difficile stargli dietro, mi creda, è difficilissimo stare dietro oggi alle produzioni in Italia. Sì, assolutamente. No, ma come le dicevo, concretamente nella nostra vita... com'è che si applica questa cosa qua? Fondamentalmente non lo so, però trovo alcuni comportamenti dei personaggi manga o fantasy, ma anche sto parlando di Dylan Dogon o Nathan Never, molto più aderenti alla nostra realtà e che visitano tematiche molto più attuali rispetto ai vecchi valori, ma anche della politica, ma lo fanno in una maniera... com'è che posso dire, indipendente e... subliminale, che non ce ne accorgiamo. Sentiamo un attimo però un esperto che, a seconda delle flessioni del suo mercato, ci può dare qualche indicazione. Luca Gismondi, buongiorno. Buongiorno. Luca Gismondi ha fondato un'agenzia, CosmoVX, che realizza costumi, scenografie, mascotte, oggettistica di ogni genere. I suoi clienti sono i cosplayer, le agenzie di animazione, le case produttrici cinematografiche... In particolare, mi dica cos'è che va più in questo momento, così capiamo qual è il valore corrispondente. Allora, innanzitutto io non sono il fondatore, diciamo che ho aiutato... Vabbè, c'è dentro, via, non spacchiamo il capello, chi se ne importa. Allora, fondamentalmente quello che più è chiesto è il manga. Il manga, ad esempio, quali personaggi? Ma diciamo le serie principali, come Naruto, One Piece, questi sono diciamo i più... I classici. Sì, anche perché diciamo che come budget chiede una spesa molto bassa, i costumi sono molto semplici, quindi... Quanto costa un costume da One Piece? Considerato che c'ha la mano di gomma estendibile, che è un particolare, costerà di più. Quello sicuramente poi sono cose che si vedono in successivo, però cose diciamo in tessuto così semplici possono partire dai 50 a arrivare a 100 euro per dire, insomma, ma non troppo di più. Se vogliamo andare a parlare poi di costumi cinematografici, allora comincia a essere una spesa sicuramente più ampia, ma con risultati. Ci si entra, guardi che io per Natale sono stato costretto a comprare un atto rianzo, una katana, ma sono cavata con nemmeno 50 euro alla fine. È molta scena e poca sostanza. Beh, anche perché diciamo le produzioni originali, diciamo licenziate, costano, si paga come per tutti i marchi il nome, no? Giustamente. Poi alla fine la qualità magari non è neanche il 100%. Ma io ho visto molti cosplayer che alla fine partono da una base acquistata, però il bello è costruirsi poi la maschera, il testa di piramide Silent Hill più volte rappresentato con un personaggio stranissimo, gira con un enorme coltellone, sì. È una testa metallica a forma di piramide, se lo costruiscono da solo, penso, non so se esista sul mercato una cosa del genere. Cose così magari particolari sicuramente se le fai da solo. Poi ci sono mille modi per costruire una cosa, perché per esempio parlando della Pyramid Head, quella che hai detto tu, si può fare magari in forex, che è un materiale plastico termoformabile leggero, si può fare in legno, addirittura però insomma comincia a diventare pesante, si può fare in polistirene, si può fare in polistiolo, la scelta dei materiali è sicuramente ampia, poi dipende da quello che preferisce chi se lo costruisce. Dalla capacità, insomma, di applicarsi del soggetto. Fermiamoci solo un istante, diamo l'informazione della borsa, però riprendiamo velocissimi questo tema e prego gli ascoltatori di abbandonare ogni reticenza, ogni pudicizia. Dite anche voi esattamente da cosa vi travestite, da cosa vi piacerebbe travestirvi. Melog. La realtà condivisa. In virtù del fallo subito da Hatton, la squadra giapponese ottiene un calcio piazzato sulla sinistra del limite dell'area avversaria. L'Italia mette ben 6 uomini in barriera. Qui Zanigata, cosa dice? In quale albergo? Ma lei chi è? Ispettore, la prego, venga subito, non c'è tempo da perdere. Soltanto pochi uomini riuscirono a salvarsi, e da altri pianeti, esseri viventi vennero in aiuto ai pochi terrestri superstiti e insegnarono loro una tecnologia più avanzata, in grado di usare, senza abusarne, dell'energia atomica. Presto, allontaniamoci, tra poco dovrà esplodere. È inutile, non ha funzionato. Attacchiamo a rotazione e tentiamo ancora con la mina atomica. Pronti all'attacco, Kokonara! 800 24 0024, stiamo parlando di un immaginario parallelo a quello che ci viene suggerito ogni giorno dai fatti e la realtà, fatto di fumetti, fatto di telefilm, fatto di detestabili forme di intrattenimento che fanno strappare le vesti a tutti i benpensanti che ci scrivono. La soluzione ai vostri problemi ci sarebbe, 5 anni di guerra e di fame vi farebbero tornare con i piedi per terra. Ma perché questa necessità di avere i piedi per terra? Non capisco perché. Siamo già condannati a averli per terra per tutta la nostra vita. Se ogni tanto ci piaccia sentire leggeri, volare sopra alla realtà, sugli strumenti, sull'aria della fantasia, perché dobbiamo considerarlo un'attività peccaminosa o deleteria? Un altro mi scrive: evidentemente hai soldi per farlo, Nicoletti. Parlavo del mio fatto personale, mio figlio che è a Tokyo. Sì, questo gli costa tutto quello che gli altri suoi compagni hanno durante l'anno: l'iPhone, la settimana bianca e altre fighettate a cui lui rinuncia volentieri per fare una cosa che per lui è importante. Ognuno amministra il suo budget familiare come meglio crede, come meglio vuole. Un altro, per fare il furbetto, mi scrive: a mia moglie piace che glielo spingo vestito da Batman. Non ci credo, ma nemmeno se lo vedo, buffone, millantatore, sai che forza spingerlo alla moglie, che grande atto di eroismo. Con chi stavo parlando? Ecco, Antonio Recupero, buongiorno. Buongiorno. Antonio Recupero è sceneggiatore di fumetti per Tunuè, che è una casa editrice specializzata soprattutto in questo tipo di immaginario, lavora nel campo della comunicazione. Sei d'accordo, Antonio, quello che stiamo dicendo questa mattina, che in realtà prima o poi esploderà quello che stiamo accumulando di immaginario, di lettura della realtà, di chiavi interpretative della realtà, basato non su sacri testi, non su quello che ci insegna la scuola, non su quello che ci dice la politica, di quello che ci dicono i nostri educatori, gli amministratori della nostra nostra etica, della nostra morale, ma di quei fantastici eroi che abbiamo delle volte letto di soppiatto, di nascosto, e da adulti con i capelli bianchi continuiamo a leggere. Ma guarda, ti posso dire che da sempre in realtà alla fine va a superare la fantasia da questo punto di vista. Tutte le varie previsioni sono andate allegramente a rotoli. Abbiamo in questo momento un personaggio politico che per anni ha usato l'iconografia di un fumetto che è V for Vendetta. Abbiamo una guerra nucleare proposta dalla Corea che sembra nella sua assurdità quasi uscita da Goldrake o... Hai ragione. Il tipico dittatore dei telefilm e dei fumetti. Addirittura sembra Ming di Gordon Flash dai tempi di Alex Raymond degli anni 30, pensa un po'. Abbiamo, diciamo, l'iconografia reale sembra oramai sempre più prendere dall'immaginario che dalla realtà stessa. Sta diventando, siamo in un loop di assurdo, se vogliamo. E a questo punto ben venga l'immaginazione anche come via, tra virgolette, di fuga, che poi in realtà non è di fuga, ma è un modo per allietare il tutto che ci accade intorno. Secondo me è una questione di convenzioni. Allora, se noi siamo convinti, e la versione scolastica della nostra formazione esistenziale data dal fatto che esistano personaggi ispirati che attingono nel luogo delle idee e ci forniscono testi di poesia, testi di narrativa, testi di saggistica, testi di riflessione, testi di filosofia, testi di etica e teologia, e su questi si forma l'umanità. Oggi, diciamo, nello stesso luogo attingono persone che poi lo trasferiscono attraverso fumetti, telefilm, film, forme diverse, pupazzi, maniere, idee per costruirsi l'esistenza. Sei d'accordo? Ma guarda, assolutamente. Tutto ciò che è reale prende alla fantasia e viceversa. Questa è la mia teoria attualmente. Abbiamo un immaginario che si nutre di realtà e una realtà che si nutre di immaginario. Questo è quello che peraltro sta portando anche a un affermarsi ad esempio di un certo tipo di cultura di fumetto. Il fumetto basato sul reale una volta era a dir poco di nicchia, oggi è quasi all'ordine del giorno. Beh, esistono fumetti che raccontano episodi di cronaca attraverso la forma, appunto, la sceneggiatura di un fumetto, sono fantastici, devo dire. Sentiamo l'esempio concreto di quello che stiamo dicendo, l'equazione umana che risulta da questo fantastico mix. È Davide. Davide, buongiorno. Davide? Sì. Eccomi. Cosa fai nella vita? Io mi occupo appunto di creature, le disegno, le scolpisco. Mi hanno cambiato la vita fin da quando ero ragazzino, dal 77 mi sono fatto il giro dei parenti al cinema con Star Wars e mi ha aperto tutto un mondo che adesso a 40 anni ho la possibilità di sviluppare. Cosa fai esattamente? Fammi capire in cosa consiste. Faccio le creature, creo le creature, è poco. Fallo capire. Faccio le creature, sì, è una cosa un po'. Praticamente io, vado dalle illustrazioni alle sculture. Tengo a precisare che non è il mio lavoro, però è una passione che da un anno a questa parte, quando ho deciso di iniziare anch'io a fare fiere tipo il Cartoon Mix di Milano, infatti voi parlavate di cosplayer che a me affascinano molto, tra l'altro ho deciso di affacciarmi al pubblico e ho avuto un riscontro bellissimo. Adesso espongo anche in gallerie d'arte, faccio quadri tridimensionali con creature all'interno, e un'altra particolarità invece è che disegno creature solo a penna, cioè rigorosamente a penna bic. Dimmi la creatura che ultimamente ti ha più ispirato, sì, capiamo anche da dove attingi. Beh, praticamente io sono un adepto di Mr. Hans Rudiger. Alien in primis mi ha scioccato quando è uscito. L'ho visto al cinema con mio padre e mi ha aperto un mondo. E adesso, diciamo, ho la possibilità di sviluppare anche uno studio personale mio. E l'hai riprodotto? Non ho riprodotto proprio Alien, però diciamo l'ambiente biomeccanoide mi ha affascinato. Mi dicono che sono riuscito ad avere uno stile tutto mio, riconoscibile. Tra l'altro io e te siamo anche su Facebook con Davide Scianca, sono io. Non lo so, ce ne ho decine di migliaia, mi sta bene? Non lo so, immagino. Va bene, allora sentiamo Antonio Recupero. Antonio Recupero, ti porgo un episodio di cronaca, proprio la notizia è di un giorno fa. La Lego la grande azienda produce mattoncini e rappresentazioni fantastiche per ragazzi costruibili, ritirerà dal commercio il palazzo di Jabba, che è un personaggio, un lumacone di Guerre Stellari. Perché? Perché la comunità islamica austriaca, un gruppo, dice che in realtà assomiglia troppo il palazzo di questo personaggio di Guerre Stellari a una moschea di Istanbul, quindi è blasfemo. Quindi dopo grandi negoziazioni dovranno togliere dal commercio una casetta con dentro ci sta un lumacone, perché qualcuno dice no, è un insulto alla nostra religione. Non trovi che questi siano anche i punti in cui vanno a cozzare il mondo antico e il mondo contemporaneo? Ma guarda, la religione da sempre è stata, ora mi attirerò sicuramente qualche antipatia, è stata sempre il peggiore vincolo e ostacolo alla creatività e alla scienza, che sono due cose peraltro molto collegate. Eh sì, perché ha un unico universo fantastico che è il suo, non ce ne sono altri. Esatto, e in pratica l'immaginario, che dovrebbe essere la cosa soggettiva per eccellenza, viene nella religione oggettivizzato. E questo non ammette un terzo mondatur, o con noi o contro di noi. Pensa che invece l'universo della religione sarebbe un universo così fantasticamente propenso ad essere sfruttato. Ti ricordi un fumetto della Marvel in cui il supereroe era San Francesco? Ci fu un fumetto di qualche anno fa in cui fece un supereroe che era San Francesco. San Francesco trasformato in supereroe. Fu bellissimo. Ah, guarda, ti dico la verità, questo non me lo ricordavo. Eh beh, te lo citerò. Te... cercare. Ci fu una serie della Marvel in cui ci fu un numero in cui San Francesco era considerato un supereroe, aveva delle super facoltà. Era dal punto di vista dell'ortodossia perfetto, solo che aveva con l'acquisizione delle stimmate lui acquisì anche dei superpoteri. Ve lo citerò e lo citerò nel mio profilo Facebook per dimostrare che ho memoria anche di questo. Melog. La realtà condivisa. 800240024, stiamo entrando sempre più nel mondo della fantasy legato ai fumetti, legato ai telefilm, e vediamo sempre più quanto diventi il tessuto connettivo che poi crea l'esperienza, una parte dell'esperienza delle ultime generazioni. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono un appassionato di manga da tanti anni, adesso ne ho 40. E mi sono sempre ispirato ai manga anche rispecchiandoli un po' nella vita, perché per esempio ci sono manga come Kenny il Guerriero oppure GTO, in cui ci sono dei valori che secondo me possono essere riportati anche nella vita reale. Per esempio Kenny il Guerriero è l'eroe per eccellenza, non so se è presente il manga. Sì, ma non è molto aggiornato sugli ultimi manga, quelli che leggono i ragazzi oggi. Gli ultimi, no, conosco anche gli ultimi tipo Death Note, che anche se è crudo è comunque un esempio di giustizia in un certo senso. A casa mia siamo pieni di opuscoli di Death Note in cui c'è appunto, ecco. Sappiamo tutto di questo, in cui leggiamo anche la data della nostra morte futura probabilmente. Infatti. E comunque li trovo molto interessanti in questo senso, perché è vero quello che diceva lei, che a volte certi valori vengono trasmessi meglio dal manga che dalle nostre istituzioni. Quindi lei porterebbe uno sceneggiatore di manga a comporre il Consiglio dei Saggi, che forse potrebbe insegnare di più quali sono i valori a cui deve ispirarsi il nuovo corso. Maurizio Di Stefano, sei d'accordo? Sì, salve. Allora, io anche... Ricordo che sei fondatore dell'associazione Huacaro al Pigneto di Roma. Sì, esattamente. Ah, mi hanno scritto malissimo, infatti. No, non c'è problema, è una associazione culturale nella quale ci occupiamo appunto di diffondere cultura giapponese e cultura anche gastronomica giapponese, oltre poi ad altri settori. E naturalmente lì. Ma tu qua sei quello anche... che ha un ristorante giapponese dove fanno... Sì, esattamente. Ah, ci sono stato. Fate cibo giapponese che mangiano in Giappone. Rustico, esatto. Noi lavoriamo proprio sul presentare tutto ciò che è, diciamo, vera, autentica cultura giapponese. Anche perché il ristorante giapponese all'italiana è la più grande mistificazione, cominciando dal sushi. Per non parlare di quelli fatti da altri asiatici che non sono giapponesi, insomma, lasciamo perdere. Purtroppo, per fortuna, ti frequento spesso, come sai, ho questa disgrazia in famiglia di un figlio fissato col Giappone. Beh, devo dire che anch'io ero fissato col Giappone fin da quando avevo 8 anni, adesso ne ho quasi 35, insomma, il lavoro da più di 10 anni come traduttore di manga, e avendo la fortuna della moglie giapponese posso viaggiare liberamente fra Italia e Giappone. E devo dire che purtroppo vedo che oggi la situazione nel campo del manga forse è peggiorata da un certo punto di vista rispetto a, non so, 10-12 anni fa. Ecco, ma qual è il motivo? Io li vedo con una grandissima diffusione, mai avrei immaginato che i ragazzi italiani si appassionassero al manga. Io l'ho visti come un fenomeno d'avanguardia, una stranezza. Oggi in maniera nascosta, le famiglie nemmeno lo sanno, nemmeno lo immaginano, ma la gioventù italiana, cioè i quindicenni, ventenni italiani, sono intessuti di cultura dei manga. Lì purtroppo andiamo a toccare un tasto molto dolente. Chi come me ha vissuto un po' il primo grande boom, e come magari chi adesso ha 40 anni ha vissuto il primissimo arrivo dei cartoni giapponesi in Italia, è chiaro, noi rappresentiamo una generazione differente, la generazione che doveva andarsi a cercare faticosamente dal pusher le musicassette con i cantanti pop giapponesi, la generazione delle videocassette. Oggi internet ha livellato tutto, purtroppo, però permette un'ampia possibilità di scelta, di visione, diciamo. È un'arma a doppio taglio, come qualunque strumento. Sì, ma tu avendo il possesso del primato esoterico, dello scopritore, soffri nel vedere la volgarizzazione. Questo accade per ogni fenomeno culturale, però è così, è immancabile. Passata una fase iniziatica, c'è una fase esoterica in cui tutti lo praticano, però sai, è sempre meglio che si guardino i talent show in televisione o sognino di andare a fare gli ospiti, che non c'è niente di male, ci va anche Matteo Renzi, gli ospiti di Maria De Filippi. Alessio Danesi, buongiorno. Pronto? Sì, Alessio Danesi, lei dirige una casa editrice che pubblica soprattutto storie degli antichi supereroi. Sono in disuso, dismessi, o hanno una loro realtà ancora di esistenza? Ma in realtà il mercato del fumetto funziona a cicli. Una volta funziona, ogni 5 anni si rinnova. Adesso funzionano molto di più i fumetti americani e italiani in Italia. Una volta funzionava molto di più il fumetto giapponese. Lei a Romics cosa farà a Romics in questi giorni? A Romics cosa curerà in particolare? Così ci dice anche qual è la tendenza ultima in questo campo. Quest'anno abbiamo due grandissimi eventi, nel senso abbiamo la mostra sui 75 anni di Superman, dove mostriamo l'evoluzione dell'uomo d'acciaio, cioè il primo supereroe. Lei pensa, per me ancora è Nembo Kid, quindi immagini. O Aquila addirittura, sì, Aquilotto, sì, addirittura. E abbiamo ospite il creatore di Buffor Vendetta, David Lloyd, che non so se hai presente, sì, è il creatore grafico della maschera di Boo, del V-Day di Grillo, che è diventato un simbolo internazionale a rappresentare Anonymous, sì, a rappresentare tutto l'antagonismo più estremo in rete, quindi inimmaginabile dal suo punto di vista, perché nasce come un eroe datato in una certa epoca storica, invece è diventato tutto. No, è meraviglioso perché abbiamo queste due facce, la contestazione più assoluta di Buffor Vendetta e il personaggio che difende il sogno americano, la libertà e la giustizia, che è Superman. Superman che tra l'altro si è rinnovato, proprio dal 2011 è cambiato totalmente, ha cambiato le proprie origini. Mi spieghi questo passaggio, che non è molto chiaro. Io ancora sono rimasto che dal pianeta in esplosione, Kal-El lo manda via, questo bambino, lo raccolgono due vecchietti di un Marel con la moglie e diventa Superman. Ma sì, in realtà è sempre comunque l'ultimo sopravvissuto del pianeta Krypton, che è cresciuto da Martha e Jonathan Kent nei valori del grande Kansas, della grande America, ha ritrovato l'amore per questo pianeta adottivo Terra. Le cose fondamentali sono rimaste le stesse. La criptonite è sempre il suo... La criptonite è sempre la stessa. E cos'è che cambia allora? Cambia l'approccio. È tutto molto più semplice e soprattutto verso il lettore, reader friendly. Cioè, si è deciso a trombare ogni tanto Superman, ecco, questo è il... Ogni tanto, ecco, esatto. Finalmente, perché tutto quell'acciaio inutilmente utilizzato mi sembrava un po' uno spreco. Si chiama uomo d'acciaio, non qualche altra cosa. È tutto, quindi. Sarà d'acciaio in ogni sua parte. Provano sempre una grande castità gli eroi, questi supereroi, all'origine erano sempre talmente adamantini nella loro missione contro il male che raramente cedevano, erano sempre delle compagne d'avventura con le quali non si immaginava nemmeno, poi non entriamo nel campo di Batman e Robin, che entriamo in campi più articolati, diciamo. Quello nell'oscurità della Batcaverna nessuno sa cosa succede. Non si sa. No. Però comunque i supereroi da questo punto di vista hanno cambiato le loro abitudini, come dire, sociali. Dall'86 in poi i supereroi sono diventati grandi e quindi hanno abbandonato la fanciullezza che ci ricordiamo dagli albi dell'avventuroso e diciamo che si sono dati alla pazza gioia. Abbiamo bisogno anche di un supereroe un pochino più lieto, meno improntato su questo pessimismo, questo senso di frustrazione. Sì, è supereroe, però è solo, difende il mondo, ma lui è solo. E sentiamo l'esito umano e genetico di tutto quello che stiamo dicendo, che è l'ascoltatore Samuele, che nell'ultimo minuto ci dirà cosa ha fatto sul suo corpo. Sì, buongiorno. Io mi sono tatuato le 7 stelle di Ocuto nel petto. Ah, bene. Come sono grandi? No, sono stelle, ho scelto la stella ebraica a 6 punte. Bene. I 2 triangoli rovesciati. Lei come sa rappresentano il carro celeste, quello che sta nel cielo. Beh, dico, sono belle, grandi, colorate, cioè quando va al mare le vedono tutti, sì. Le vedo tutti, vedono, io purtroppo c'ho la panza e questo è il problema. Però e fra un po' saranno coperte dalla pancia, quindi? No, fanno la curva. Ah. È il mal dell'agnello al rovescio, sì. Sì, no, ci do tutto io, non solo quello, non importa. Sì, comunque, ecco, questi qui, d'inverno, quando so solo io che ce le ho, mi sento molto forte. E beh, se ne cancella 2, gli rimangono 5 stelle, avrà buone chance di buttarsi in politica. Grazie, ci sentiamo domani.